Graziosa, corta e bella, signori eccola qua, signori eccola qua. Le donne sul balcone, so bene indovinar, i giovani al cantone, so meglio stuzzicar. Ah, vecchi innamorati, scaldar po' le cervella, scaldar po' le cervella. Ah, vecchi innamorati. Chi vuol la zingarella, graziosa, corta e bella, signori eccola qua, signori eccola qua. Le donne sul balcone, so ben indovinar, giovane al cantone, so meglio stuzzicar. Oh, vecchi innamorati, oh, vecchi innamorati, scaldar po' le cervelle. Chi vuol la zingarella, graziosa, corta e bella, signori eccola qua, signori eccola qua, graziosa, corta e bella, graziosa, corta e bella, signori eccola qua, graziosa,